felice di guardare il mare, quasi stendersi nel suo colore, è felice di pensare a te, amore. Sono a pezzi e mi sbriciolo sul pavimento, ma di rivederti sono contento, a quest'ora che anche il tuo bel viso è spento. Volerei come un gabbiano, ma questo cielo come lontano. Volerei nel paradiso, chiudendo gli occhi nel tuo sorriso. Non è vero che il tempo che è passato non servirà a bagnare le labbra più assetate di verità. Felice di raschiare il fondo della mia speranza che nascondo tra le pagine sbiadite la tua foto. Sono a pezzi e mi sforzo di annusare il mare tra le sbarre fredde di un colore. Lascio libero dalle mie mani il cuore. Volerei come un gabbiano, ma questo cielo per me volerei nel paradiso, chiudendo gli occhi col tuo sorriso. Non è vero che il tempo che è passato non servirà a bagnare le labbra più assetate di verità. Non è vero che l'odio più crudele vince su noi, perché con un cappello di sfiggere si perde in noi, e per sempre in quel vento il mio pensiero corre felice, felice.